Questa è una mappa dell'ultimo censimento austro-ungarico e che mostra, diciamo, nelle parti scure sono i territori a prevalenza italiana, mentre rappresenta la presenza italiana in questi territori, ovviamente la parte più scura è dove gli italiani sono in maggioranza, eccetera. No, io non credo ai censimenti, voglio dire, non ci tengo particolarmente a dimostrare che c'erano pochi italiani o che erano schierati in una zona o nell'altra. Vi mostro una mappa del censimento per farvi notare come il censimento sia uno degli strumenti, uno dei principali strumenti peraltro, che portano all'identificazione nazionale e quindi alla creazione di stati nazionali. Proprio sulla base della separazione, sulla base della obbligatorietà di dichiarare una singola nazionalità. Cioè, da quando esistono i censimenti sostanzialmente non puoi più dire io sono un po' italiano e un po' tedesco come poteva fare Italo Svevo. Devi dire se sei italiano o tedesco, e questo fa una grande differenza. Da questo comincia in qualche modo il passaggio attraverso l'identificazione nazionale, il nazionalismo, eccetera.